2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 12 dicembre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Bentornati, sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 at radio24.it. Ma soprattutto oggi vorrei ricordarvi il nostro numero verde 824 0024, perché anche questa, quella che state ascoltando, è una puntata speciale di 2024 dedicata al mondo della telefonia mobile. Potremmo dedicare forse 8, 12, 24 ore a questo mondo molto complesso di cui parliamo molto spesso. Oggi cercheremo di condensare molte delle vostre domande in questa ora del nostro programma. Saluto Massimo Morandi, il nostro esperto di mobilità, potremmo definirlo così, direttore di Cellulare Magazine. Massimo, bentornato a 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Cito un'altra pubblicazione che voi avete lanciato negli ultimi due anni, dico bene, Smartphone Magazine. Sì, tre anni fa. Perché il mondo della telefonia mobile si sta trasformando molto rapidamente. Voi appunto tre anni fa avete colto questa novità del mercato, gli smartphone, e vorremmo partire anche un po' da questo punto, cioè la trasformazione che i cellulari, che i telefoni mobili stanno avendo, dico stanno avendo perché la trasformazione è in atto e ancora molti non la conoscono o non la utilizzano, non vogliono o non possono utilizzarla, diciamo, avete approfittato facendo anche Smartphone Magazine. Due cose su quello che è successo negli ultimi anni, forse ragionando su questo anno che è stato un anno un po' difficile per il mercato in generale, il mercato della telefonia mobile grazie agli smartphone diciamo ha vissuto un buon anno tutto sommato. Ma direi che i settori in crescita come sempre sono quelli più evoluti e quelli più di base. È chiaro che in un anno così i telefoni che costano meno sono quelli che hanno venduto di più, ma è anche vero che una grandissima fetta di persone ha optato per telefoni più evoluti. D'altra parte la telefonia mobile è sempre stata molto molto molto elastica e anche molto rapida a muoversi, e i suoi produttori lo stesso, a seconda del tipo di anno. E naturalmente in questi ultimi 12-24 mesi tutto sta convergendo sulla grande rete, tutto sta andando verso internet e anche i telefonini si sono abituati immediatamente a offrire connessioni internet più importanti. Nella fattispecie io direi che oggi tutti stanno cercando di produrre telefoni che siano in costante connessione con internet, perché tutte le notizie sono lì e l'interazione deve essere sempre in tempo reale. Pensiamo alla posta, pensiamo ovviamente a tutto quello che passa sul web, alle notizie, allo sport, è tutto in tempo reale, quindi anche i telefonini devono permettere di attingere continuamente da questo enorme bacino d'utenza. Un'altra delle cose che va detta per descrivere molto brevemente, ma del resto in alcune puntate dell'anno abbiamo già descritto ampiamente in maniera più dettagliata questo mercato, però va citato un fatto che è successo, che stiamo vedendo anche recentemente, cioè che in questo mercato, in quello della telefonia mobile, ci sono dei nuovi player. Alcuni fanno parte del mondo del software, cioè quelli che fino a qualche anno fa facevano solo software, sono entrati nel mercato della telefonia mobile. Altri che facevano parte e fanno ancora parte del mondo dei computer, che guardano questo mercato come molto interessante, quindi si affacciano. Quindi i player del mercato sono molti di più. Sì, sono molti di più. Poi a guardare bene le quote, diciamo che le quote fondamentali poi sono forse meno di un tempo. Oggi invece, e questo è sicuramente un merito di questo settore, molti ci stanno ancora entrando, perché si pensa che dalla telefonia mobile si possa ancora fare business in questo settore. E allora ci sono stati dei player interessanti che hanno offerto anche novità che i colossi non hanno avuto ancora, possiamo dire, il coraggio di offrire. Parliamo ad esempio dei telefonini dual SIM, che sappiamo piacciono che sono poco, molto comodi, sì, che sì. Sono molto comodi, funzionano anche molto bene, ma piacciono poco agli operatori, quindi naturalmente chi fa tanto business con gli operatori non ha ancora avuto il coraggio di lanciarli. Ma direi che insomma è un settore sicuramente vivace. Dicevo prima che ci sono due mondi che stanno trasformando questo mercato, cioè il cellulare, cioè il classico telefonino, e lo smartphone. Da qui partiamo tra poco. Volevo ricordarvi il nostro numero verde per proporre o una domanda a Massimo Morandi oppure anche una vostra considerazione. 800 24 0024. Che cos'è uno smartphone? Sentiamo che cosa hanno risposto alcuni cittadini di Milano qualche giorno fa, intervistati da Irene Privitera. Secondo me adesso sarebbe utile, se bisogna regalare un telefono che abbia la connessione a internet, quindi cercherei subito un telefono con la connessione a internet. E per una questione puramente estetica, anche un telefono con il monitor touchscreen. Tu sai la differenza tra un telefonino tradizionale e uno smartphone? Sì, lo smartphone dovrebbe essere quella categoria di telefoni che ti permette di fare più cose di un telefonino tradizionale. Ha delle applicazioni che possono variare dall'utilizzo dell'email all'archiviazione di immagini, filmati, ascoltare la musica. Beh, uno è oltretutto è un computer, l'altro è solo per telefonare. Smartphone dovrebbe essere un tipo computer forse, oltre il telefono normale, sì. Sa che cos'è il touchscreen? Sì, sì, si tocca lo schermo col dito. Non è una parolaccia. Perfetto, allora, uno smartphone deve avere secondo lei touchscreen o la vecchia tastiera? Lo smartphone deve avere... lo smartphone sarebbe meglio avesse il touchscreen. Adesso faccio una domanda difficile. I sistemi operativi che vengono utilizzati nei moderni telefonini, si ricorda qualche nome? Ah no, i sistemi non li conosco, a malapena conosco i computer. Beh, alcune sono risposte sicuramente divertenti. Parleremo anche di sistemi operativi, almeno per citare e per dire anche alla persona che è stata intervistata quali sono i sistemi operativi. Devo dire, parlando anche con Irene Privitera, che ha fatto qualche giro per la città facendo queste interviste, che non sono molte le persone che sono preparate per acquistare un telefonino. Le domande erano appunto: se lei dovesse acquistare un telefonino oggi, è preparato per l'acquisto di un telefonino? Lo diciamo spesso, visto che la tecnologia è ormai un elemento importante della nostra vita, sarebbe opportuno riuscire ad acquistare in modo consapevole, cioè vado in negozio sapendo alcune cose importanti per l'acquisto, perché poi il commesso della situazione non sempre, però a volte ci vende quello che a lui conviene di più, perché gli operatori naturalmente spingono. A proposito, prima di rispondere alla domanda che cos'è uno smartphone, Massimo, quali sono, più che rispondere alla domanda dove è meglio comprare, però quali sono i canali di vendita? Perché in Italia il canale libero è un canale molto importante, al contrario di altri paesi dove quasi tutti i telefoni vengono venduti dagli operatori, o comunque vengono distribuite dagli operatori e a volte non vengono nemmeno venduti. È un canale importantissimo ed è un canale che varrà ancora molto di più il prossimo anno, perché il mercato proprio degli operatori si sta restringendo in modo significativo e continuerà questo trend. Ma sai, dove si può comprare? Dipende dal tipo di utente, perché si può comprare in un negozio specializzato, e qui ovviamente sempre pro e contro, magari l'offerta è un po' minore, ma comunque c'è la possibilità di essere seguiti da venditori un pochino più specializzati rispetto a quelli che si trovano nella grande distribuzione. Poi c'è la grande distribuzione, che naturalmente ha un'offerta enorme, però di solito io consiglio di andare a comprare in grande distribuzione quando si hanno le idee già molto chiare, perché altrimenti si rischia solo di aggiungere confusione a confusione. Poi c'è il canale del gestore telefonico, che è particolarmente utile per chi non vuole dare tutta la somma subito, ma magari acquistare un telefono a rate, pagarlo insieme al piano che si sottoscrive e avere una garanzia anche da parte dell'operatore. Come contro, magari abbiamo un sistema, un menu che è un po' troppo personalizzato rispetto invece ai corrispondenti telefoni del mercato libero. C'è un altro canale che sta crescendo tantissimo, che è quello dei negozi online. Sì. Funzionano molto bene, si trovano delle ottime offerte, si compra con estrema sicurezza. Questo è bene dirlo, perché in Italia molti sono ancora restii a dare la carta di credito online, ma si tratta ovviamente di pagamenti sicuri. Bisogna fare attenzione in questo caso a comprare telefoni italiani, cioè che abbiano garanzia italiana. Garanzia italiana, sì. Senti, che cos'è uno smartphone? Cioè, come lo definite voi, visto che prima sentivamo alcuni intervistati che dicevano uno smartphone è quello che serve per connettersi a internet? Beh, direi che qualcuno la definizione l'ha data abbastanza giusta o ci è arrivato molto vicino. Premetto che negli ultimi 12 mesi dare una definizione di smartphone è sempre più difficile, perché molti telefoni che smartphone non sono si sono avvicinati tantissimo nelle funzioni, nella tecnologia e nell'offerta agli smartphone veri e propri. Forse alla fine rimane soprattutto in uno smartphone un sistema operativo di base che consente di aggiungere funzioni, che significa aggiungere nuovo software per dare al telefonino delle nuove funzionalità. Allora, sentiamo altre voci che abbiamo raccolto giusto per mettere oggi sulla tavola qualche ingrediente in più. Se le dico cos'è uno smartphone, lo sa? Oddio, no, non lo so. Quei telefonini che servono per navigare su internet, ha presente? Sì, ho presente, non ho mai navigato su internet con i telefonini, non so neanche se si può, probabilmente sì, posso farlo, no? Sì. Telefonino tradizionale lo uso per telefonare e mandare messaggi, lo smartphone ti colleghi a internet, ai vari social network e quant'altro. In uno smartphone, touchscreen o tastiera? Touchscreen. Perché? Meno ingombro, è più comodo. Se ti chiedo i nomi dei sistemi operativi che vengono utilizzati nei telefonini di oggi, ne sai qualcuno? No. No. Se dovesse comprare un telefonino... Guarda, io ne ho uno che costa 30 euro, non sono assolutamente tecnologica. Se le chiedo che cos'è uno smartphone, quindi... Non lo so. Smartphone credo sia tecnologia, microtecnologia. No. Io passo. Quali sono, se li sai, i sistemi operativi che vengono usati all'interno dei telefonini di ultima generazione? C'è Omni è qualcosa di Nokia, poi c'è Windows e poi c'è quello della Apple sull'iPhone. Beh, quest'ultima ragazza ci ha preso, è stata forse l'unica tra quelle che abbiamo intervistato, e ringrazio per le interviste Irene Privitera, che ha fatto molte interviste. Poi sapete che tra tante interviste si vanno a scegliere quelle che più o meno possono rispondere anche alla ratio della giornata o comunque della trasmissione. Poi parliamo anche dei sistemi operativi. Abbiamo sentito alcuni ascoltatori citare spesso internet. Questo, Massimo, è un altro elemento importante, cioè quest'anno abbiamo visto una crescita molto interessante delle connessioni ad internet tramite telefonino, che sono una cosa un po' diversa rispetto alle chiavette che vanno attaccate al computer, che sfruttano sempre la rete di telefonia mobile, ma un conto è navigare direttamente dal telefonino, un conto è utilizzare le chiavette. Questo va chiarito e detto anche perché le tariffe sono diverse, però ecco, su questa crescita poi nei fatti, cioè la sensazione è dimostrata anche dai fatti? Ma direi di sì, e lo dimostra anche il fatto che alcuni produttori, un nostro ascoltatore intervistato ha parlato dei social network, hanno dato un impulso fortissimo anche alla telefonia, e in un certo senso la telefonia ha dato un impulso molto forte ai social network, perché quale cosa è più social di essere sempre in contatto ovunque siamo, soprattutto fuori di casa, con amici, parenti e colleghi? È stato importantissimo, e i social network ovviamente passano sotto la voce di internet. Proprio per questo è cresciuta l'esigenza di navigare sul telefonino, non con il telefonino, non usando il telefonino come modem, ma usando lo schermo del telefonino e un browser, un mini browser del cellulare per navigare. E ripeto, è una tendenza che secondo me continuerà la crescita, e ha dato impulso anche alla parte hardware, quindi display, importante che siano più grandi, browser, che i produttori di browser che stanno che dopo aver prodotto il loro browser per il PC stanno lavorando anche per produrre importanti browser anche per i telefonini. Opera è il classico esempio. Direi che oggi navigare su un telefonino è sicuramente più agevole di un tempo. Quello che è bene, bisogna sempre stare molto attenti ai costi, perché i costi sono ancora alti, quindi poi ne parliamo. Qui forse è bene parlarne. Sì. Vi ricordo il nostro numero verde, oggi parliamo di telefonia mobile, naturalmente l'accesso alla rete internet tramite gli strumenti mobili della mobilità e anche tramite il network di telefonia mobile è un trend molto interessante di cui appunto parleremo. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, se volete parlare con noi. Vi do anche il numero per gli sms, anche se mi piace più sentire la vostra voce piuttosto che leggere i vostri messaggi. Comunque 349 238 6666. Cito un ultimo elemento che è importante per il mercato, è stato citato, prima un intervistato diceva il touchscreen è una questione puramente estetica oppure il touchscreen è meno ingombrante. Allora non capisco dove sia meno ingombrante rispetto a una tastiera, ma comunque questo però è importante capire che anche qua le mode, il marketing degli operatori, dei produttori è molto importante, un po' come quello che sta succedendo nel mercato delle TV. La settimana scorsa abbiamo parlato delle TV, che differenza c'è tra una TV piatta che sia di 2-3 centimetri o che sia di mezzo centimetro? Ben poca, se io la metto sopra un mobile o se la appendo ad un muro, però il mercato pare che vada in quella direzione. Molti italiani diventano matti per acquistare, magari spendendo anche qualche soldo in più, per acquistare una TV che sia piatta. Poi l'utilità, tecnologicamente parlando, non esiste, ma la moda va in quella direzione. Touchscreen sì, touchscreen no, questa è una delle domande che si sono fatti i nostri ascoltatori, che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, alla quale cerchiamo di rispondere. Massimo, questo è un motivo ricorrente in molte nostre email, in qualche modo viene citato il touch, sì, no, ci sono anche qua i partiti, chi a favore, chi contro. Tu che cosa dici? Ma io ho sentito in una di queste interviste dire il touchscreen è più comodo. Allora io dico, dipende da cosa dobbiamo fare con un telefonino. Il touchscreen è sicuramente più comodo per sfogliare le foto, per accedere alle funzioni multimediali, per guardare i video, per muoversi magari nei menu. Direi che non è assolutamente più comodo, perché qui ci vuole la tastiera per gestire un alto numero di mail al giorno, per scrivere messaggi. Io direi che in questo caso la tastiera QWERTY, proprio quella che noi abbiamo davanti al nostro monitor sul nostro PC dell'ufficio, è ancora insostituibile. Io invito chi dice che il touchscreen è oggi la vera novità per tutti, invito a provare a mandare 100 o 200 email al giorno. Beh, diciamo che non è un caso che RIM, Research and Motion, che produce BlackBerry, e la serie E di Nokia, che forse sono le due serie, due prodotti più venduti in ambito business, hanno la tastiera e non sono touchscreen. Sulla parte business la tastiera è assolutamente sostituibile. Saluto Alberto che ci chiama da Palermo. Buongiorno Alberto. Buonasera e complimenti intanto. L'ascoltiamo, grazie molto. Io volevo fare una domanda. Parliamo di smartphone, però sono mediamente appassionato, ecco, mi rendo conto che ancora dei browser buoni di supporto non esistono, perché molti, a parte Skyfire, non leggono le applicazioni in flash. Ho letto che Opera stava lavorando a un progetto simile, però ancora, diciamo, non ha dato nessun esito. Volevo chiedere se c'è una ricerca a tal proposito, ecco. Grazie Alberto, buon ascolto. Grazie, arrivederci. Questo è vero, diciamo che il flash è ancora il problema più grande dei browser per i telefonini. Io non ho citato a caso Opera prima, perché comunque il produttore più impegnato nella costruzione di browser per cellulari. La mancanza anche di questi plug spesso è anche la causa del mancato accesso a determinati servizi. Faccio un esempio su tutti, l'home banking che ci viene fornito dalle nostre banche. Spesso, proprio per la mancanza di o qualche plug o del Java o del Flash, noi non riusciamo a entrare in mobilità sul nostro conto corrente. Però anche qui si sta lavorando intensamente. Io penso che oggi ci siano dei telefoni che offrano un'esperienza di navigazione particolarmente buona. L'iPhone sicuramente è uno di questi. Nel complesso c'è ancora tanta strada da fare. Ecco, mi sembra di capire dal mercato, e qua cito le famose applicazioni, ed esistono ormai tanti negozi che erogano o vendono applicazioni, mi sembra di capire che, visti i problemi, sia perché lo schermo è piccolo, sia per i problemi citati da te, anche da Alberto, che le applicazioni siano un sistema per bypassare il problema, cioè per fare una certa cosa con un computer si usa il browser, quindi il programma per navigare in internet, si fa tutto con quel programma. Sul telefonino si usano le applicazioni. Qua poi il problema è che se io devo fare 100 cose devo avere 100 applicazioni, questo è un problema. Eh sì, ma è proprio perché non c'è ancora un browser universale che funzioni alla perfezione, le applicazioni vanno a sostituire tutto questo. Ma volevo solo aggiungere una cosa sugli schermi. Per la navigazione internet, ad esempio, il touch è straordinario, soprattutto il multitouch. Perché? Perché hai citato giustamente i telefonini hanno degli schermi piccoli, però è anche vero che la possibilità di zoomare con due dita, di aprire la pagina, di ingrandirla o di rimpicciolirla, è una cosa che ad esempio non si può fare con lo stilo o è molto più difficile fare con la tastiera. Diciamo una cosa importante su internet, poi sentiamo Corrado che è in linea con noi. Una cosa però su internet è importante. Allora, molti vorrebbero navigare in internet col telefonino, però attenzione, perché se non si ha una tariffa che in qualche modo preveda la navigazione si rischia poi di tirar fuori un sacco di soldi. Sì, infatti sono addirittura questi telefoni che sono nati per essere sempre connessi a internet, nascono con delle tariffe ad hoc che contengono già un volume di dati mensili a disposizione. Poi abbiamo una domanda via SMS su questo punto interessante, perché apre uno scenario molto bello. Corrado da Verona, buongiorno. Buonasera, ascolti, volevo chiedervi, visto che avete fatto una bella carrellata sulle smartphone, però non è solo un discorso di browser, secondo me, c'è anche un discorso di sistema operativo. Ah, certo. Specialmente gli open source stanno venendo avanti, Android piuttosto che Linux. Visto che oltretutto gli smartphone sono l'oggetto del momento, una carrellata sui migliori smartphone presenti sul mercato secondo voi, sbilanciandovi un po', facendo i nomi? Sì, allora è difficile, è chiaro Corrado, grazie di essere con noi, grazie per averci chiamato. È difficile sbilanciarsi per un motivo, perché come ha scritto Massimo Morandi, la sua redazione su Cellulare Magazine, dire chi è il migliore, anche se alcuni ascoltatori vorrebbero, perché io so che quando finiamo la trasmissione poi ci sono quelli che scrivono, dicono: ah, non avete detto che quello è il migliore. Purtroppo non esiste il migliore, certo è, e ha ragione Corrado, che ci possiamo sbilanciare. Sì, non c'è il telefono per tutti, perché ciascuno di noi ha un'esigenza di utilizzo che è completamente differente. Abbiamo appena parlato della differenza tra touchscreen e tastiera. Sui sistemi operativi invece una riflessione da fare c'è, e giustamente il nostro ascoltatore ha sottolineato alcuni sistemi operativi come Android, che sono gli emergenti. Android ovviamente è il sistema operativo per cellulari di Google, perché sono nati nell'era di internet e quindi hanno capito che la connettività e la connessione continua con il web è la cosa più importante, e quindi sono più facili, sono più intuitivi e si fanno molte cose in maniera molto più semplice. Sono consigliati anche ai neofiti, mentre sistemi operativi magari non così nuovi, un pochino più complessi, anche con un'offerta molto grande, io non mi sentirei di consigliarli a un neofita. Sì, cito, visto che possiamo tranquillamente sbilanciarci, sicuramente per navigare e per fare molte altre cose, l'iPhone ha aperto un mondo e sicuramente è un ottimo sistema operativo quello della Apple per l'iPhone, e sicuramente anche un ottimo telefono. Però ad esempio noi facciamo la radio, io adoro ascoltare la radio anche quando cammino, quando passeggio, quando sono sull'autobus. Sull'iPhone non c'è la radio FM, quindi da questo punto di vista, nella mia classifica, questo è un punto a sfavore. Certo è che, ribadisco, è sicuramente un ottimo telefono. Sull'iPhone vuole intervenire Giovanni, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buonasera, buonasera. Ecco, io sono appunto un possessore di iPhone 3G che, vi confesso candidamente, ho craccato il firmware per installare anche applicazioni non riconosciute dalla Apple. Comunque, premettendo che chi ha intenzione di utilizzarlo come telefono deve assolutamente prendere un telefono che non abbia tutte le altre funzionalità, io volevo dire che sono un pochino perplesso circa questa tecnologia 3G, che era stata venduta come una velocità incredibile di navigazione, mentre a meno che non si frequentino pagine appositamente pensate, appositamente leggere, con una risoluzione adatta, è un po' proibitivo insomma navigare su internet. Cosa ben diversa è quando si può viaggiare su una rete wireless, quando lo si aggancia in wifi, allora lì è una meraviglia insomma. Sì, è vero, ha perfettamente ragione. Il problema delle reti 3G è un problema che gli operatori stanno osservando con preoccupazione. Mi dicono molti operatori che vendono broadband, che quindi vendono connessioni in banda larga, che alcuni operatori si stanno equipaggiando per creare reti molto più ampie, però questo è effettivamente un problema. Poi dipende naturalmente dall'operatore, Massimo. Dipende molto dall'operatore, dipende molto dalle zone d'Italia, e poi purtroppo il problema vero di fondo è che la velocità nominale delle connessioni è troppo lontana dalla velocità reale. Questo a causa dei colli di bottiglia che si creano in rete, proprio perché comunque la navigazione è uno dei servizi sempre più utilizzati e in futuro lo sarà ancora di più. 2024. Questa è la seconda parte di 2024, bentornati, vi ricordo che è possibile scaricare la nostra puntata anche attraverso il servizio podcast, anzi vi consigliamo di abbonarvi al servizio podcast di Radio 24 e scaricare settimana dopo settimana anche in maniera automatica 2024. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024, oggi parliamo di telefonia mobile con Massimo Morandi. Massimo, non abbiamo detto prima, abbiamo citato più volte i sistemi operativi, che sono un altro pezzo che sta prendendo una forma molto importante in questo mercato. Sta crescendo la quota di mercato degli smartphone. Lo smartphone si definisce anche perché ha a bordo un sistema operativo diverso rispetto al classico sistema operativo un po' rudimentale del telefonino normale, perché tutti hanno qualche cosa per far vivere l'hardware, però qua stiamo parlando di sistemi operativi molto più simili a quelli dei computer. Sì, e soprattutto un po' più aperti delle piattaforme proprietarie dei normali telefonini, che consentono di fare poco rispetto a quello che ti fa fare poi il produttore del terminale stesso. Tra l'altro sono sei, perché sono in continua espansione e sono in continua evoluzione tutti e sei. Allora, quali sono? Il più conosciuto, che è anche quello che ha la quota di mercato maggiore, è Symbian, che possiamo dire che è il sistema operativo posseduto da Nokia, con la sua nuova declinazione touchscreen. Questa è ovviamente novità del 2009. Poi abbiamo Windows Mobile, che è il sistema operativo di Microsoft, giunta proprio quest'anno all'edizione 6.5. Android. Un po' in difficoltà, diciamo, la Microsoft in questi ultimi mesi, in modo particolare con l'evoluzione del touch, è un po' meno user friendly, come si dice. Sì, e soprattutto è visto come un sistema operativo più business e un pochino più complesso da utilizzare. Sì. Poi c'è Android, che come dicevo è un'altra novità di quest'anno, quindi in un anno un po' così come il 2009 vediamo che alla fine le novità sono state parecchie in questo settore. È il sistema operativo di Google, che io in questo momento consiglierei soprattutto a chi usa molti servizi di Google, ad esempio la Gmail, e magari un po' meno a chi non accede a questo tipo di servizi. In futuro, intendo un futuro molto breve, con l'uscita del nuovo Android 2.0, questo in un certo senso magari sfumerà un po' di più, perché ci sarà accesso e l'apertura anche ad altri molti servizi, non solo di proprietà di Google. Poi c'è il sistema operativo di BlackBerry, non dimentichiamo che anche quello è un sistema operativo un po' più chiuso naturalmente, ma che ha un'eccellente gestione della posta elettronica push, quindi la posta elettronica che giunge sui nostri cellulari senza che noi la si debba continuamente controllare. C'è Linux, che fa da base al nuovo sistema operativo di Nokia, ad esempio impiegato da Nokia sui suoi tablet top di gamma, e poi c'è l'iPhone OS, che è il sistema operativo impiegato in questo momento unicamente sull'iPhone di Apple. Ed è sicuramente quello che ha lanciato tutta una serie di novità, alle quali poi si sono accodati anche altri produttori, non ultima e forse la prima da citare, quella del touchscreen, cioè questo sistema operativo è un sistema operativo che lavora molto bene con lo schermo touch. Una domanda al volo di un ascoltatore a proposito di touchscreen o tastiera. Al di là delle mode, costa di più il touch, quindi uno schermo particolarmente evoluto, o un telefono con la tastiera? Come costo di produzione costa sicuramente di più uno schermo a sfioramento, quindi touchscreen. Tra l'altro i nuovi schermi capacitivi, quindi quelli che non possono essere più mossi con un pennino, con la penna o con un oggetto che non, tipo un oggetto di legno, una matita, ma solo con il dito, perché comunque non c'è solo la pressione del vetro del display, ma c'è anche la conducibilità elettrica del nostro dito, quelli sono veramente molto ma molto più costosi. Anche degli schermi touchscreen resistivi, che sono, diciamo, i primi schermi, e sono ancora, tra l'altro, la maggioranza in commercio. Saluto Luca, che ci telefona da Verona. Buongiorno Luca, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Io due giorni fa con un mio amico stavamo parlando proprio di smartphone e di connessioni riguardanti appunto gli smartphone o anche tutte le compagnie telefoniche, e ci siamo chiesti a un certo punto: non è che questi telefonini, soprattutto appunto gli smartphone, siano progettati per un mercato americano? Mi spiego, qui in Italia, in Europa, se uno vuole andare in Inter col telefonino deve avere una connessione abbastanza vantaggiosa, perché come ha detto lei prima, se no è un gran danno per il portafoglio. Però in America ormai i punti wifi liberi e senza cose sono tantissimi, e i telefonini smartphone che hanno applicazioni, anche l'iPhone, che utilizzano internet sono tantissimi. Ecco, il mio dubbio è che non è che il nostro mercato non sia ancora pronto, per così dire, anche se poi l'utilità l'abbiamo anche noi in termini pratici, però ecco, non è che il mercato non sia ancora pronto, il mercato europeo, ad avere questo tipo di prodotti. Volevo sapere un vostro parere, ecco. Luca, faccio io una domanda. Tu hai uno smartphone, quindi lo usi? Cioè, io sì, certo. Perfetto, quindi parlavate sulla base anche di una vostra esperienza. Sì, perché vuol dire, io lo uso smartphone, tutte le applicazioni, anche magari diciamo software di Office, così. Però quando devo andare su internet, insomma, devo essere diciamo sicuro che mi serva, altrimenti è un costo inutile. Però mi dico, se io fossi in una città con un wifi completamente gratuito, magari internet lo utilizzerei anche per telefonare, mi riferisco a Skype, perché molti telefonini possono supportare Skype. Ecco, questo discorso più generale, ecco, magari il nostro mercato non è ancora preparato per l'utilizzo totale, completo, di tutte le applicazioni di utilizzo pieno dello smartphone, diciamo. Bravissimo Luca, questo è un punto centrale in questo mondo in trasformazione. Grazie Luca di averci chiamato. Dico che è un punto centrale, e lo abbiamo ripetuto anche nelle ultime settimane, perché citare il wifi in questo contesto, in questo ecosistema, è importante, e ripeto cose che ho detto anche nelle ultime puntate. Sicuramente, ed è una buona notizia, alcuni anche politici si sono accorti dei problemi che ha il wifi in Italia, parlo del wifi in ambito pubblico, che potrebbe servire appunto allo sviluppo di applicazioni anche nelle città. Quindi uno effettivamente, di fronte, poi parliamo anche dei costi, di fronte ai costi di connessione della telefonia mobile, laddove magari uno non ha una tariffa particolare, potrebbe e dovrebbe scegliere una connessione wifi. In Italia ci sono una serie di vincoli che speriamo vengano superati verso la fine dell'anno, perché sapete che esiste un decreto che è stato costruito pensando all'antiterrorismo, che prevede la tracciabilità, la registrazione di chi si collega ad un hotspot wifi pubblico, quindi di un bar, di un ristorante, di un albergo o di un aeroporto. Questo sicuramente frena il mercato. Però Massimo, vorrei partire da qua per parlare delle tariffe di connessione ad internet. Molti ascoltatori, e questo è un motivo ricorrente anche di molte email, ci dicono: ah, ma ci sono un sacco di problemi a connettersi perché ci sono dei costi molto elevati. Nella realtà dei fatti, poi, questi costi sono così elevati, o gli operatori negli ultimi anni con molte difficoltà si sono avvicinati alle richieste degli utenti? Punto interrogativo. Ah, sai, io penso che gli operatori si siano avvicinati molto, moltissimo alle richieste degli utenti, prevedendo addirittura dei piani specifici proprio per i telefoni che sono nati per essere sempre connessi, e poi dando l'occasione a chi comunque vuole utilizzare internet, la posta, o navigare sul telefonino, o utilizzare una internet key, quindi la classica chiavetta, di avere delle offerte importanti. Tipo? Perché così andiamo... Ma guarda, è molto semplice. Innanzitutto gli operatori hanno diviso l'offerta a volume e a tempo. A tempo significa che io pago un tot per avere 20 ore, 30 ore, 50 ore di tipo? Navigazione. Beh, qui i piani iniziano da 9, 10 euro, 30 ore al mese. E consigliati, io almeno di solito li consiglio a chi naviga poco, si connette poche volte, perché ricordiamo che nella navigazione a tempo ogni connessione vale 15 minuti, non 30 secondi. Sì, non per tutti, ma comunque per buona parte del mercato. Per la maggior parte. Stiamo parlando dei costi di connessione ad internet tramite telefonino. Massimo Morandi ci stava dicendo e spiegando che i costi si stanno effettivamente abbassando, e ci faceva alcuni esempi. Massimo. Sì, ho fatto l'esempio della navigazione a volume, a tempo, ma c'è anche poi la navigazione a volume. Oggi con 5 euro, ad esempio, con la Super Internet di 3, si hanno a disposizione 3 giga al mese. Ti assicuro che per fare 3 giga su un telefonino ci vuole parecchio, non è come fare 3 giga sul computer. Cioè, tu dici, più o meno tutti gli operatori hanno delle tariffe che hanno dei che prevedono dei limiti molto elevati, quindi di fatto sono quasi delle flat. Sono una sorta di tutto compreso, ovviamente non c'è il discorso e il concetto di flat nel mobile, non esiste, perché la risorsa, come abbiamo detto prima, è scarsa, poi si formano i colli di bottiglia e gli utenti si lamentano la rete lenta, certo. Però un altro esempio, c'è una chiavetta di Vodafone a 29 euro, quindi con 29 euro ci si mette in tasca una chiavetta con 3 mesi di navigazione gratuita, che poi sono 30 euro al mese. Il gratis in questo senso è inteso così, sì. Quindi i prezzi sono sicuramente molto più bassi di un anno fa. Sì, certo è che appunto senza queste tariffe uno un po' si spaventa. Perché... No, senza queste tariffe non solo ci si spaventa, ma è assolutamente sconsigliato navigare, perché invece di spendere 19 euro per fare 50 giga al mese, si rischia di spendere 100 o 200 di euro, sì, per sì. fare molto meno. Comunque è vero che anche dal punto di vista, da questo punto di vista, cioè le tariffe sono molto complicate. Il presidente dell'autorità per le comunicazioni Calabro recentemente l'abbiamo intervistato e gli ho chiesto: ma per quanto riguarda le tariffe c'è secondo lei chiarezza? Lui dice di sì, secondo me no, c'è ancora molto. Sono forse un po' troppe e un po' confuse. Infatti, poi ci sono un sacco di note in fondo, quindi gli operatori dovrebbero fare molto di più da questo punto di vista e non ci siamo proprio. Vincenzo da Milano, buongiorno, anzi io continuo a dire buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a questo punto. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per avermi consentito di intervenire. Io volevo porre un quesito, sono un felice possessore di un Qtech 9000 da ben 5 anni. È un pocket PC, almeno quando io l'ho acquistato, lo uso soprattutto per scopi professionali, quando l'ho acquistato mi è stato proposto come pocket PC e devo dire sia touchscreen sia con tastiera specifica. Devo confessare che non mi è ancora estremamente chiaro, pur essendo molto soddisfatto, qual è l'elemento o quali sono gli elementi distintivi che differenziano un pocket PC da uno smartphone. Vi sarei grato se poteste chiarirmi. Forse sono la stessa cosa, non lo so. Grazie Vincenzo, ci ascolti per radio, le diamo il tempo di fare lo switch sulla radio, visto che a volte arrivano le risposte mentre uno sta magari riaccendendo la radio. Massimo. Beh, oggi questa differenza direi che non c'è praticamente più, perché i prodotti in circolazione di questo genere sono quasi esclusivamente smartphone, proprio perché, come abbiamo detto, la connettività è il principio base. Smartphone sono la stessa cosa. Sì, una volta i tablet e i pocket PC erano quelli che non avevano la connettività e quindi avevano bisogno di un telefonino per vivere e per vivere la rete, per collegarsi. Oggi non c'è più questa differenza. Dario ci telefona dalla provincia di Bari. Buonasera, Dario. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi permetto di salutare Massimo, direttore di Cellulare Magazine, anche di Parole Mobili, che è un forum che assiduamente frequento e che pubblicizzo, tra virgolette. Dario, abbassi il volume della radio, per cortesia, perché sentiamo un eco che è un attimo. Classico. Sì, è un classico quando si tengono le radio accese. Okay. Ecco. Va meglio ora? Prego, prego, sì. Ok, la mia domanda era relativa al sistema operativo Symbian. Io parlo da un utilizzatore di iPhone e anche di Nokia 71, però il mio dubbio era relativo a questo. Vedendo i nuovi sistemi operativi quali Android, Maemo oppure iPhone, che mi sembrano anni luce avanti a Symbian, anche per quanto riguarda l'interfaccia, che è molto più user friendly. E anche se comunque so che nel core Symbian è molto potente, però il nostro direttore ritiene che sia necessaria un'innovazione per quanto riguarda il Symbian che permetta l'utilizzo in maniera più fruibile a tutti gli utenti magari di fascia più bassa? Certo, questa è una bella domanda, secondo me Symbian si deve dare una bella mossa. Massimo. Beh, domanda giusta. Come dicevamo prima, è stato uno dei primi sistemi operativi a nascere e oggi sconta sicuramente qualche guaio e ha qualche ruga data appunto dall'età. Qualcosa è già stato fatto con il passaggio alla possibilità anche di avere lo stesso Symbian in versione touchscreen. Si sta lavorando già al nuovo Symbian, la notizia della scorsa settimana, anche Nokia stessa ha lasciato trapelare qualche nuova funzionalità, quindi la possibilità di avere innanzitutto il multitouch, che ancora è abbastanza latitante. Ma la verità è questa: i sistemi operativi più nuovi sono nati per le esigenze di oggi e quindi sono molto più bravi a rispondere alle esigenze di oggi e degli utenti, e soprattutto quelle della connettività internet. Esatto, sono nati con internet e con la rete in testa, quindi sicuramente il sistema operativo dell'iPhone e il sistema operativo di tutti i telefoni che montano Android, questo sistema operativo di Google, sono da questo punto di vista sicuramente più avanzati, non vi è alcun dubbio. Sergio da Ascoli Piceno, buonasera. Buonasera a voi, grazie per avermi fatto intervenire. Io volevo fare una considerazione in merito a questi telefonini. Da qualche anno a questa parte io in media uso telefoni Nokia soprattutto. Sto vedendo che la parte telefonica viene soppiantata a discapito di quella per navigare ed altre cose facili col telefonino. Diciamo, questi telefoni vengono infarciti di tutto meno che della parte telefonica. Che cosa intende per parte telefonica? Diciamo, la qualità della parte telefonica viene un po' da parte a discapito di quella per navigare. Dico questo perché ho notato, adesso uso un Nokia E55 che ho comprato di recente, e come costruzione è pessima, nel senso che l'antenna telefonica di ricezione è posizionata in basso rispetto a quella per il GPS addirittura. Ah, certo. E su molti forum viene citata questo problema, l'effetto mano, il classico effetto mano. Come si mette la mano dietro il telefonino, la parte telefonica viene coperta. Esatto. Grazie Sergio, buon viaggio, grazie di averci chiamato. Questo è sicuramente un punto interessante che mi pare che accomuni un po' tutti i telefoni, e poi possiamo fare mille esempi. Prego. Sì, il problema non è che viene trascurata la parte telefonica, il problema è che ci sono tantissime anime che devono parlare fra di loro, e soprattutto ci sono troppe antenne, perché una volta c'era solo l'antenna dentro il telefonino. Sì. Oggi c'è questa antenna, c'è l'antenna GPS, e poi alla fine c'è il wifi. Ce ne sono tante, quindi non è facile. C'è quella dell'FM per la radio, che a me piace molto. Coordinarle e farle parlare tra di loro, questo è il problema. Non penso sia Devo anche dire una cosa a proposito degli operatori, perché una buona colpa è degli operatori. Negli ultimi anni, almeno per alcuni operatori, la qualità delle reti sta calando, perché gli operatori cercano di dare più spazio al web, alla navigazione, quindi la parte telefonica ne risente. Quindi non è tutta colpa dei telefoni, quindi dell'hardware, ma è anche colpa degli operatori, che non stanno facendo sicuramente molto da questo punto di vista. C'è anche chi dice che esistono tecnologie per migliorare la fonia, quindi la qualità della voce, ma che in Italia non hanno molto successo. Voci di mercato. Sentiamo Michele che ci telefona da Milano. Grazie Michele, abbiamo 3 minuti, cerchiamo di sintetizzare. Buongiorno. Sì, buongiorno, buonasera. La mia domanda è questa: per la parte dei virus, perché abbiamo parlato di questi smartphone, quindi sistemi operativi e tutto, quindi si avvicina molto alla parte dei computer, dei portatili e così via. Quali problemi ci possono essere a livello di virus e quali ci sono già sotto questo punto di vista? Domanda chiarissima, grazie Michele, buona serata. Massimo. Risposta brevissima: i problemi relativi ai virus che si possono prendere navigando via internet sono molto molto bassi in questo momento. Naturalmente ci sono gli antivirus, ce ne sono veramente tanti. L'utilizzo di questi antivirus però è ancora molto limitato. I virus sono un problema veramente minoritario in questo momento. Perfetto. Cito un caso, visto che recentemente ho incontrato alcuni cinesi che dicevano che per loro un grande problema è quello dello spam via SMS. Non mi risulta che questo sia un problema in Italia. In Cina dicevano che in una giornata magari ti arrivano 10, 15, 20 messaggi SMS che sono spam. Sì, quindi... è vero, qui questo problema l'abbiamo un po' meno, ma io temo di più i virus che arrivano con messaggi MMS piuttosto che quelli che si rischiano di incontrare navigando in internet. Bene, avremo la lista degli argomenti, è molto, molto lunga, il nostro tempo si è esaurito, noi vi ringraziamo per averci ascoltato in questa puntata di 2024 che troverete anche su internet, quindi www.radio24.it. Grazie a Massimo Morandi. Su cellularemagazine.it c'è una guida che avete fatto per l'acquisto di un telefonino, che è sicuramente un punto di vista. A presto, buon lavoro Massimo. Ciao, grazie, buon lavoro anche a te. Ricordo, visto che fa parte del nostro mondo, all'interno del Sole 24 Ore esiste una rivista che si occupa di Mac, che si chiama Applicando. Nel numero in edicola c'è un piccolo volume, una guida che si chiama iPhone e Mac, coppia perfetta. Quindi se siete possessori di iPhone e di Mac, questo è sicuramente un punto di vista interessante. Prima di concludere vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, se volete scrivere un messaggio potete scrivere a 2024@radio24.it. Dicevo che la puntata sarà disponibile sul nostro sito internet. Esiste un ottimo e comodo modo per riascoltare 2024, è quella di abbonarvi e di sottoscrivere il servizio podcast. Tutte le informazioni sono online oppure scriveteci una email. Ringrazio per l'assistenza Giorgio De Luca e in regia Paolo Corleoni, che è stato abile a mettere in onda le telefonate e anche le nostre sigle. Buon lavoro a tutti, grazie per la vostra attenzione, buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected.